Giovedì 3 marzo in Corsica è arrivata la notizia dell'aggressione avvenuta in carcere ai danni del prigioniero politico Ivan Colonna nel carcere di Arl. E questa notizia ha subito, diciamo, scosso tutta la popolazione in Corsica. Ivan Colonna è un simbolo della lotta corsa ed è considerato, diciamo, l'emblema della violenza dello Stato francese nei confronti dell'autodeterminazione del popolo corso, e per questo si è subito sollevata, diciamo, tra la popolazione una forma di sconcerto. Già da giovedì 3 infatti nelle varie città della Corsica sono iniziati dei presidi davanti alle prefetture, che avevano un po' la struttura di una veglia funebre, durante i quali sono state accese delle candele e talvolta anche accesi dei fuochi. La famiglia di Ivan Colonna aveva chiesto di mantenere la calma per capire anche inizialmente quale fosse la situazione, e infatti così è stato. In quei giorni si doveva tenere un convegno internazionale della gioventù indipendentista, che è un sindacato studentesco, universitario corso, che si chiama Scontri Internazionali. Gli scontri sono stati annullati, dove doveva tenersi questo convegno è stata poi chiamata un'assemblea pubblica per il giovedì, che ha visto la partecipazione di quasi 500 persone, tra cui anche tutti i capi dei vari partiti nazionalisti corsi, sia degli autonomisti, sia dell'area autonomista, sia dell'area indipendentista. Durante questa assemblea si è deciso di chiamare il corteo di domenica 6 a Corti. Si è deciso che questo corteo doveva essere guidato dalla componente giovanile del movimento, e quindi da tutti i collettivi e sindacati studenteschi e universitari, e infatti così è stato. Nei giorni poi precedenti al corteo sono comunque proseguite le veglie e i presidi davanti alle prefetture di tutte le città. Inoltre sabato 5 c'è stato un blocco al porto di Ajaccio, perché è arrivata la notizia che dovesse arrivare la gendarmerie francese su una nave della Corsica Ferries, e questa nave non è stata fatta attraccare al porto. Diciamo, il blocco dei porti è una pratica molto, molto diffusa in Corsica, è stata organizzata sia da alcuni partiti che poi dal sindacato dei lavoratori portuali. È una pratica che è molto rodata, è stata fatta anche spesso, quando viene fatta capillarmente in tutta l'isola, viene chiamata isola morta, ed è appunto un blocco, uno sciopero di tutti dei lavoratori portuali, che fa sì che appunto non siano, siano bloccati tutti gli accessi all'isola, e questo può succedere anche per diversi giorni. Ci sono muri che sentono e vedono, ci sono spie nel mio microfono, so bene che sono soltanto un numero tatuato sotto la pelle, con un codice a barre come sbarre d'acciaio. Non credo alle balle, hanno messo gas in nome del progresso nel mio ossigeno. Controllano, parlo al telefono, camuffo il mio lessico più che il braccio di un tossico. La mia testa stretta da un laccio, catene di montaggio, uomini automi danno olio all'ingranaggio. Con le leggi bianche il potere, tra bocchini sotto scrivanie tracciano strategie per nuove lobotomie. Squali vogliono vegetali, schiavi in fila come militari, perciò ufficio mandano i loro emissari, a scuola i miei professori, in strada pubblici ufficiali, messaggi subliminali, nei televisori predicatori, vendono la fede a rate, comprare ubbidire, ma non sapranno mai le mie coordinate. Non hanno capito che la chance che mi piego subito, che una moneta cade croce 100 volte di seguito, valgo più di 4 cifre, non credi, cronache di regime, cose che non vedi. Cose che non vedi, che non vedi, cospirazione, cospirazione, per il 2000, per il 2000, sarà scuola, sarà scuola, sarà scuola. Buonasera a tutte e tutti, ben ritrovati a Cronache di Regime, sono le 19.09, sempre sulle frequenze in streaming di Malaradio Milano. Iniziamo la sesta puntata, abbiamo iniziato con una parte di un audio racconto di una compagna riguardo gli avvenimenti che ci sono stati in Corsica negli ultimi 10 giorni, ne abbiamo sentito una parte. Sentiremo il resto all'interno della puntata e approfondiremo la questione anche chiamando a breve il presidente dell'associazione Associu Solidarita, che è un'associazione in difesa dei prigionieri politici corsi. All'interno della puntata poi parleremo anche di cosa è successo l'8 marzo a Firenze, faremo una chiacchiera con un compagno che insieme ad altre ed altre ha organizzato il presidio contro la guerra in Università a Milano presso la sede di Via Conservatorio, e poi parleremo anche della repressione che colpisce ancora una volta i NOTAV, daremo sempre 2 aggiornamenti dal mondo delle sbarre e del carcere, e infine faremo un'intervista con un gruppo musicale, questa volta tocca agli Antidigos, che presenteranno il loro CD L'amor mio non muore. Allora, ora ci sentiamo subito un pezzo per entrare in tema, questo è un pezzo dedicato al Fronte di Liberazione Nazionale Corso e si chiama Sono loro, e poi torniamo in diretta e proviamo a contattare appunto il presidente dell'associazione dell'Associu Solidarita. Allora, torniamo in diretta. Proviamo quindi a chiamare il presidente della Socio Solidarita. Probabilmente parlerà in corso, ma abbiamo qui con noi un compagno che proverà a tradurre, insomma, quello che il presidente ci dirà riguardo questi 10 giorni che ci sono stati in, di lotta e di rivolta, ci sono stati in Corsica. Pronto, ciao, ci senti? Ci senti? Sì. Pronto. Ciao, buonasera. Buona serata. E niente, allora, come detto, noi abbiamo un po' introdotto l'argomentazione e volevamo chiederti cosa è successo in Corsica e volevamo iniziare un po' dalla situazione di Ivan Colonna. Da cosa, allora, cosa hanno fatto i prima, gendarmi francesi? Allora, non solamente i gendarmi francesi, ma prima Baradichi e Ivan Colonna in deprecio francese non è mica stato potuto. Già prima fare Baradichi, se c'è stato una tentativa d'assassino fatto di un uomo di prigione di Arla e che ha prigione un'amica fatto il suo lavoro già in primi tempi, e dopo Baradichi ha responsabilità oggi è a prigione di Arla e soprattutto stato Francesco che ha legato ma di così smerzata la situazione, perché oggi fa più di 4 anni che domandiamo l'avvicinamento di prigionieri e soprattutto la libertà. Ecco. Sì, allora ti chiedo se dopo puoi parlare un po' più piano, e ora comunque c'è un compagno che ti traduce quello che hai detto, va bene? D'accordo, grazie. Buonasera. Allora, buonasera. Buonasera. Io gioco galluresu. D'accordo, lo so, dunque corso e mi chiamo Casorasco Ciri. Piacere mio, Antonio. Altrettanto, Antonio. Abba, poco a poco, provo a traduci cos'è ti detto. Allora, io ho capito, hai già ricominciato. Allora, in primi tempi, Baradichi, la situazione di Ivan Colonna, per rapporto a ciò che si è passato in prigione di Francia a Arla, Baradichi ha responsabilità è caso di apprigio e caso di un stato francese. Apprigio perché apprigio non è mica stata capace a puttita a un nostro fratello Ivan, e dopo a un stato francese che è un'amica ascoltata le domande di avvicinamento che abbiamo domandato e fa che c'è un si può dire un cerca a barola una vendetta di un stato francese, voilà, perché a Wafa c'è più di 4 anni che comunque avevo domandato l'avvicinamento di prigionieri politici, voilà, di Ivan Colonna, Pierre Alessandra e Alain Ferrandi, e in Sinawa la scusa era che i cartulari erano sempre in deprigio DPS. DPS vale di prigionieri sorvegliati, dunque una falsa scusa per mica poter avvicinarli. Allora, in poche parole, col tempo che hanno provato durante il trasferimento dalla Francia alla Corsica, hanno sentito tramite un'amica anche le domande che lui presentava per essere trasferito, per ascoltare la sua parola, per ascoltare voleva dire. Oggi per il momento un suo amico ha trasferito, oggi per il momento il governo francese ha giusto cacciato ciò che li chiamano DPS. E un bel amico di che oggi non siamo mica sicuri che i 3 prigionieri politici possono rientrare, possono essere avvicinati in la prigione di Corsica. Oggi non abbiamo mica una parola che si può dire che l'ha avvicinato. Non hanno niente, diciamo, non sanno niente, non hanno notizie, dice, di giusto, dico giusto? No, niente. Non vi sono parole, non vi sono notizie da nessuno, non ci sono notizie da nessuno di queste persone. Non ci sono notizie. Non ci sono, esatto. Non gli hanno fatto sapere niente, diciamo, a nessuno, per gli avvicinamenti alle prigioni a casa. Niente, ne parlano mica, non parlano mica di avvicinamento, non parlano mica di libertà, fa chi in più, sono passati qualche mese fa, giustamente fa una domanda di libertà e un giudice terrorista era favorevole a libertà. E dopo perché ha fatto appello a questa affare? Baladichi, come l'ha detto Nanzu, c'è una vendetta di un Stato francese per rapporto sul cartolare. Lui, sì, lui dice che comunque è lo Stato che si vuole vendicare di questa cosa, che c'è una vendetta in corso che si vuole vendicare, non vuole far sapere notizie di queste persone, non vuole ascoltare le loro domande, non vuole far sapere a nessuno dove sono o quando avranno della libertà, quando avranno la loro libertà. Voilà. E non solamente qui, ma in più un fagenomica viaggia è legge francese, perché la legge stessa dà un diritto all'avvicinamento, è una fagenomica. E quindi dice, quindi non stanno neanche rispettando la legge, perché la legge, come diciamo, per legge loro hanno diritto all'avvicinamento alla loro terra. Sì, la legge hanno diritto all'avvicinamento. E per cui se che oggi c'è tutto stato gioventù e un popolo rosso e tutti i movimenti indipendentisti che sono in garugge di accorsi Gazan. È una cosa nel senso che colpisce tutti, dai giovani ai movimenti indipendentisti. Dai giovani ai movimenti e ai vecchi al di là. Al di là dei movimenti indipendentisti, anche quelli che sono mica d'accordo con noi, quelli di dritta, di manca, sono d'accordo con questa fase. Sì. Anche chi non è del movimento indipendentista, chi è comunque chi ha la sua politica, comunque è d'accordo con questa cosa, che la legge dà loro diritto di avere una risposta e di essere avvicinati a casa. Avvicinati a casa, i movimenti, tutti i movimenti nazionalisti e soprattutto quelli indipendentisti domandano a libertà di tutti i prigionieri politici. Ci ferma nei prigioni in Francia e in Corsica 6 prigionieri in tutto. Dunque domandiamo la libertà di tutti i prigionieri politici, a riconoscenza di un popolo rosso e a un cominciamento di poter negoziare qualcosa a un livello istituzionale e economico per Corsica. E lui dice che comunque tra la Francia e la Corsica ci sono 6 prigionieri politici. È il conteggio che hanno fatto loro. E tutti stanno provando a muoversi per avere notizie, per poter avere delle risposte per le domande da loro fatti, diciamo, che per la libertà. Per il momento non c'è stato niente. Per il momento non c'è stato proprio niente, questo si capisce bene, credo. Voilà. E per questo che c'è sta rivolta della gioventù e di un popolo rosso. Ed è per questo che c'è ora in atto questa rivolta della gioventù e del popolo anche. Sì, infatti ti volevamo chiedere, dopo il tentato omicidio di Ivan Colonna c'è stata una vera e propria reazione da parte di tutto il popolo corso, un po' ovunque ci sono stati cortei a Corti, ad Ajaccio, a Bastia, e se ci vuoi dire un po' come sono andate queste giornate di lotta. Allora, queste giornate di lotta sono passate di una maniera semplice. Semplice Baladicchi, a gioventù ha preso soprano a Nanta l'istituzionale e ci sono state baruffe tra e forse dell'ordine francese e la nostra gioventù in Corsi Casane, che la Vusi in Ajaccio, Bastia, Corti, Portivecchi, Calve, Isola Rossa, tutta Corsi Casana. lui dice dal giorno che è iniziata ci sono stati comunque degli scontri, delle rivolte nelle piazze, nei porti, che è una cosa che non ha colpito solo un paio di città, ma ha colpito tutta la Corsica. Tutta la Corsica, sì. Sì, volevamo capire anche come si sono posti i francesi rispetto a questo, nel senso se hanno provato a reprimere i cortei che ci sono stati, oppure tipo hanno lasciato spazio. Per un momento aspettano, sta settimana c'è Marco Reggio e c'è un ministro dell'interno che giungono in Corsica, in Ajaccio, per poter appacciare, ma solamente non siamo mica sicuri se la va il gesto che aspettiamo. Lui dice, no. Sembra che si muove qualcosa, però per il momento non hanno avuto notizie. Sempre qui stasera siamo sempre in riunione, giustamente, per poter cercare a far tornare qualcosa. Qua gli dice, fanno un sacco di riunioni ogni giorno, che si riuniscono per poter fare qualcosa, ma per quanto ho capito ancora non hanno avuto notizie, non si è saputo niente. No. L'unica cosa che mi pare che abbiano fatto i francesi è stata la revoca dello status di detenuti attenzionati nei confronti di Pier Alessandria Lanferrandi. Hanno provato a fare questa cosa per cercare di smorzare un po' la tensione in questi giorni, ma non ci sono riusciti, perché era come dare una piccola cosa al popolo corso per dire state buoni. Però giustamente il popolo corso non ha accettato, e anche ieri nel corso della manifestazione di Bastia la gioventù, ma tutto il popolo si è proprio rivoltato, cioè è stata una grande giornata di lotta, di scontri. È vero, tutto il popolo si è rivoltato e siamo mica d'accordo con ciò che l'ha data allo Stato. Non basta mica, domandiamo semplicemente a libertà, chi hanno il diritto di avere a libertà. Un nemico, un regalo. Lui dice che non vogliono niente di speciale per queste persone, vogliono solo che vengano rispettati i loro diritti, cioè la libertà, che hanno il diritto della libertà. Non stanno chiedendo niente di anormale, niente di speciale, stanno chiedendo la libertà per questi prigionieri ingiusti. Ingiusti, è vero, tutto affatto. Va bene, dai, noi ti ringraziamo, abbiamo provato a fare questa diretta, è un po' complicato con la traduzione. Un po' complicato per rapportare la lingua, non facendo lo contrario, è un po' piacere che di vostra chiama, in tutte le case, e ci ammette pure quando volete, non ci sarà, sempre cartesia. Dice che anche per lui è un piacere di chiamare quando vogliamo, che almeno questa notizia gira in tutte le case, perché comunque non se ne parla dappertutto ed è importante che si parla, sì. E che si dice la verità. Dice la verità, ci fa vera al mondo usano come Avrancia si comporta. Vale a dire che Avrancia si comporta in una certa maniera, e è la stessa maniera che Putin va a guerra, e Avrancia fa già la stessa, ma in un'altra maniera. Ieri stesso. Lui comunque dice che alla fine la decisione finale avverrà, la fine di questa cosa avverrà quando la Francia si deciderà a muoversi e a fare avere delle notizie a tutti, nel senso che in base speremo a come si comporterà, vedremo come andrà, diciamo. Voilà, speriamo in tutti i casi che Avrancia a un momento dato si sta comportando normalmente, mica con sempre questa vendetta di un Stato. Dice che comunque se non si comporterà bene, nel senso che se continuano a comportarsi così, ci sarà una rivolta, una vendetta comunque. Sempre, la rivolta in bala. Vale a dire che ha da continuare e più ad andare, più ad essere pigli, perché a gioventù e diceva dei movimenti politici indipendentisti sono a fianco a gioventù, non è mica lasciare minò la nostra gioventù. E dice, più tempo passerà e peggio saranno le cose, perché anche i giovani si stanno smuovendo, si stanno organizzando, muovendo per organizzare dei bei movimenti politici che rispettano appunto la legge che lo Stato non sta rispettando. Tutto fatto. Sì, insomma, i giovani non saranno lasciati soli e niente, guarda, ti ringraziamo. In caso ci risentiamo magari nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, per capire se ci sarà un'evoluzione riguardo questa situazione qua. Vi ringraziamo tanto perché sappiamo che sono state giornate complicate, veramente tutti i giorni avrete fatto sicuramente assemblee per organizzare cortei, manifestazioni, iniziative di protesta. Anche oggi ho visto che comunque tutti gli studenti liceali, ho visto qualche video da qualche parte, comunque c'erano i licei, gli studenti non entravano, quindi c'è gente che si organizza, che continua comunque a porre la propria opposizione in tutte le maniere possibili. Dai, ti ringraziamo e ci sentiamo presto. Buonasera. È stato un piacere, amico mio. È stato un piacere parlare per... fai da a voi. Vabbè, è altrettanto per me. È stato un piacere. Buona serata a tutti. Si volti. Buonasera. Ciao, ciao. Buonasera. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Allora, abbiamo parlato, appunto, abbiamo provato a fare questa intervista con traduzione, un po' macchinosa, però penso che comunque più o meno il concetto è quello che è stato espresso. Dopo il tentato omicidio da parte dello Stato francese nei confronti di Ivan Colonna non ci sono state più notizie, in Corsica ci si è iniziati a rivoltare un po' ovunque, in tutte le municipalità. Hanno provato ad allentare la tensione elevando lo status di detenuti particolari attenzionati per Ferrandi e Alessandri, e però il popolo corso non si è fermato e ieri c'è stata una grande giornata di lotta a Bastia. A proposito di questo, continuiamo un attimo a sentire un po' dell'audio racconto che ci ha girato una compagna riguardo gli avvenimenti corsi, poi ci sentiamo un po' di musica e poi torniamo in diretta con Cronache di Regime. Per quanto riguarda poi invece le altre componenti, sempre in tutti quei giorni ci sono stati dei blocchi sia nei licei che nelle università. E, diciamo, la protesta ha avuto questa forma fino al corteo di domenica 6. Il corteo di domenica 6 si è svolto a Corti, che è una città, oltre ad essere, diciamo, il polo universitario più importante della Corsica, è anche una città che ha un portato culturale molto importante per il popolo corso. Durante questo corteo, appunto, a guidare il corteo c'erano tutti i gruppi studenteschi, ma il corteo è stato lanciato e partecipato da tutte le realtà che compongono il movimento nazionalista. Il corteo è stato molto partecipato, ha visto circa 10.000 persone, c'era più o meno rappresentata tutta la popolazione corsa. È stato un corteo che è partito dalla stazione di Corti per arrivare fino alla prefettura. Non si è riusciti ad arrivare propriamente alla prefettura perché solo in quell'occasione la polizia si è fatta vedere con un dispiegamento di forze importante. Fino a quel momento, durante tutti i presidi, non c'è mai stata la presenza della polizia, e questo anche perché dichiaratamente non volevano alzare il livello della tensione, alzare il livello del conflitto, perché sarebbe stato visto da tutti come un atto di provocazione la presenza della polizia. Questo ovviamente durante quel corteo non è stato così. Il corteo si è svolto senza la presenza di polizia, ma quando si è arrivati alla via della prefettura, quella via era completamente bloccata. Poco era bloccata con delle grate dietro le quali poi si trovavano le camionette della polizia con poi la, diciamo, l'equivalente dell'acelere schierata. E, dopo veramente pochi minuti dall'arrivo del corteo di fronte alle grate, sono iniziati dei lanci di oggetti verso il cordone della polizia. La polizia ha risposto quasi immediatamente con un forte lancio di lacrimogeni. Questo tuttavia però non ha bloccato l'intensità del corteo, anzi diciamo gli scontri sono diventati sempre più forti. Non si è mai arrivati ad un momento di confronto diretto con la polizia, però diciamo è stato molto cioè è stato un gli scontri sono durati quasi 3 ore. Dopo un po', oltre ai lacrimogeni, la polizia francese ha iniziato a tirare anche le granate di dispersione. Inizialmente le tiravano in aria, poi hanno iniziato a tirarle sul corteo, infatti ci sono stati circa 25 feriti. La giornata si è svolta in questo modo. A quanto pare era da molti anni che non succedeva una situazione del genere durante un corteo in Corsica. Tutte le persone erano molto, molto contente di questo fatto, perché anche per esempio durante la manifestazione, quando diciamo un gruppo di ragazzi più attivi sono arrivati con dei materiali tutti assieme, il corteo li ha fatti sfilare applaudendo. E questo a quanto pare in Corsica non succedeva da molto tempo, quindi è stato proprio un momento importantissimo, anche perché poi questo evento ha portato poi a tutto quello che è successo nei giorni successivi. Diciamo che il corteo di domenica ha dato il là all'espressione della rabbia in piazza, e nei giorni successivi infatti moltissimi gruppi di giovani hanno iniziato ad assaltare sistematicamente le prefetture delle varie città, sia a Bastia che ad Ajaccio che sempre a Corti. Ci sono stati anche dei violenti scontri con la polizia, dove la polizia ha usato le flashball, le granate. Ci sono stati molti feriti e quasi una trentina di fermati, tutti giovanissimi, tra i 14 e i 25 anni. E questo, diciamo, però in realtà queste azioni di piazza hanno avuto una risposta molto buona dalla popolazione. Tutta la popolazione si è schierata dalla parte dei giovani, in difesa dei giovani. È stato creato anche un collettivo di avvocati appositamente per la difesa dei giovani che sono stati fermati. Dopodiché, insomma, in questi giorni quindi c'è stato un escalation di situazioni di scontro in piazza. Questo è stato preso bene anche dai vari partiti, soprattutto i partiti più dell'area indipendentista, che hanno incoraggiato i giovani a continuare con la protesta. Dopodiché, ecco, è stata fatta un'altra assemblea in cui si è deciso di lanciare un altro corteo per questa domenica, che era il corteo di ieri. Questo corteo è stato lanciato a Bastia. Scrivo a te, fratello di gatto, le mie orema la dispero, quando no ti sei interrati, dall'amore.

quindi questo, diciamo, non è bastato affinché le proteste si fermassero. Inoltre quello che possiamo dire è che, ecco, mercoledì, questo mercoledì 9, c'è stato al palazzo di è stato attaccato anche il palazzo di giustizia di Ajaccio, che è stato a cui è stato dato fuoco, comunque ci sono stati lanci di oggetti anche contro un po' tutte le tutti quelli che sono in Corsica i simboli dello Stato francese. La risposta della popolazione è sempre stata quella di una grande solidarietà ai giovani, tutte le persone stanno dalla parte dei giovani, l'opinione pubblica li sostiene, e infatti il corteo di Bastia di domenica è stato lo stesso partecipato da circa 10.000 persone, forse anche qualcuno in più, è arrivato sotto la prefettura e da lì lo stesso, dopo pochi minuti, è iniziata sono iniziati gli scontri, perché c'era molta polizia schierata, gli scontri saranno iniziati intorno alle 4:15 del pomeriggio e sono finiti forse alle 9:30 di sera. La polizia ha fatto un uso smodato di lacrimogeni e granate, però insomma i giovani organizzati erano e attivi erano molti di più di quelli presenti a corti, insomma il livello di scontro è stato molto alto e ci sono stati più di 60 feriti, e la giornata è andata avanti così, con la maggior parte del corteo, anche diciamo quello meno attivo, è rimasto a sostegno comunque dei gruppi organizzati giovanili. In questa parte del corteo c'erano anche diciamo i rappresentanti soprattutto dei partiti indipendentisti, che insomma hanno sostenuto molto i giovani presenti in piazza. Questo sì, diciamo che non sembra che, almeno questo non possiamo saperlo, però insomma non sembra che il fuoco si stia spegnendo, anzi sono stati 10 giorni molto molto intensi che sono andati in crescendo, e nulla, questo è più o meno un racconto di quelle che sono state le rivolte in Corsica degli ultimi giorni. Allora, 19:57, torniamo in diretta con Cronache di Regime. Abbiamo dato ampio spazio a tutta la Corsica che è in fiamma di rivolta. Abbiamo parlato con un compagno del percorso della Magnifica a Firenze, di quello che è successo l'8 marzo appunto a Firenze, dell'occupazione, dell'immediato sgombero e dei percorsi di lotta che stanno provando ad iniziare per cercare di avere appunto un'occupazione transfemminista in città. Ora diamo come al solito al volo un po' di aggiornamenti dal mondo delle carceri. Andiamo subito a Foggia, dove sono stati aggrediti, a quanto pare, dicono i mass media di regime, soprattutto i sindacati dei secondini si piangono. il fatto che sono stati aggrediti 2 secondini da un detenuto e per un secondino ci sono 10 punti di sutura. Secondo il capo delle guardie di Foggia, questo è il 7° episodio in un mese. Invece a Catanzaro un detenuto armato di un punteruolo artigianale, rudimentale, dicono i giornali, è riuscito a sottrarre le chiavi ad un secondino, non viene specificato bene, non vengono specificate bene quali chiavi, comunque a quanto pare ha sottratto le chiavi, ha tenuto in ostaggio la dottoressa dell'azienda sanitaria provinciale. Dicono che era un detenuto con problematiche psichiatriche che sta all'interno di sezioni comuni, però noi a queste notizie non è che ci crediamo tanto, perché molte volte le persone che continuano a rivoltarsi anche all'interno del carcere vengono tacciate di avere problematiche psichiatriche. Abbiamo parlato a lungo di evasioni in queste puntate e questa settimana c'è stata un'altra evasione un po' differente dalle altre. Mentre a Vercelli piuttosto che a Bellizzi, piuttosto che a Trieste, si è scavalcato il muro di cinta, sono state segate le sbarre, ci si è calati con le lenzuola fuori dal carcere. Qui un detenuto in attesa di giudizio a Como ha chiesto di andare al cimitero per andare a trovare la madre di defunta e poi, una volta arrivato al cimitero, è riuscito a divincolarsi dalla sorveglianza delle guardie ed è riuscito a scappare. Ancora non è stato trovato e noi accogliamo con grande gioia questa notizia. Buon per lui e speriamo che non venga più ripreso. In questi periodi, in questi giorni sono ricorsi i 2 anni dalle stragi di Stato. Settimana scorsa c'è stato anche il presidio a San Vittore, abbiamo intervistato una compagna riguardo appunto le rivolte che ci sono state a San Vittore, ad Opera, ricordiamo i morti di Stato che ci sono stati nel carcere di Modena. Sempre riguardo Modena e il processo per la morte di Adidi, di questo ragazzo che le guardie e il medico del carcere di Modena all'epoca avevano fatto passare per una morte di overdose. Insomma, continua questo processo qui e il medico legale del garante dei diritti pone invece un dubbio a riguardo della morte di overdose di questo detenuto, perché a quanto pare questo detenuto è morto con un trauma al volto e con 2 denti rotti, quindi non si capisce bene poi come possa essere collegata l'overdose rispetto ai 2 denti rotti e il trauma al volto. Sappiamo che poi a processo di sicuro i medici che hanno falsato le carte e i secondini che hanno pestato il ragazzo che poi è morto in isolamento, perché di questo si tratta, un ragazzo che è stato pestato, portato in isolamento e poi è morto ammazzato dalle botte delle guardie, verranno di sicuro assolti. A noi non ci interessa questo, ma ci interessa insomma anche cercare di far passare queste informazioni e cercare di divulgare le informazioni che ci arrivano dal mondo delle gabbie. Bene, ora ci sentiamo un paio di pezzi hardcore per alleggerire un po' la situazione. Ci sentiamo i Vitamin X con About to Crack e i Slender di Venezia con Scarsi and Ashes. E poi ritorniamo in diretta, sempre qui con Cronache di Regime, con un compagno in presenza che ci parlerà di come è andato il presidio contro la guerra che si è tenuto in università settimana scorsa, mercoledì scorso, presso la sede di Via Conservatorio. Un compagno dell'Assemblea di Scienze Politiche. Va bene, ora ci sentiamo questi 2 pezzi e poi torniamo in diretta con Cronache di Regime. Allora, 20.06, torniamo in diretta, come detto, parliamo con un compagno di comandato questo presidio contro la guerra in università, e facciamo subito una domanda, poi dopo lasceremo spazio e si presenterà lui da solo. Quindi volevamo chiedergli come nasce l'idea del presidio contro la guerra e se c'è un gruppo al momento che si sta occupando della situazione riguardo il conflitto russo-ucraino in università. Grazie mille dello spazio, ciao a tutti, sono Michele di Assemblea Scienze Politiche. E allora, il presidio nasce, è stato fatto il 9 marzo ed è nato, diciamo, molto in fretta. Noi avevamo come collettivo un bel po' di cose da fare in quel periodo, ma ovviamente l'invasione di Putin della Crimea ha colto tutti quanti molto di sorpresa, e quindi l'idea di fare questo presidio è stata quasi immediata, nel senso che si voleva da parte nostra dire qualche cosa riguardo al clima veramente pesante che si stava creando e che continua ad andare avanti in Italia, quindi di interventismo quasi apertamente da tutte le forze politiche. Quindi quella che a noi premeva in quel momento fare era dire chiaramente quali sono le responsabilità della NATO in questo conflitto che si è creato, e che in quei giorni, e come continua tuttora, vengono completamente dimenticate, si parla soltanto della Russia. E soprattutto ci premeva cercare di individuare, al di là di analisi che sicuramente si possono fare interessanti e giuste, una linea d'azione pratica, praticabile qui sul territorio italiano, perché appunto nonostante questo sia uno scontro, sia una guerra imperialista, noi non viviamo appunto non viviamo né in tutti i paesi contemporaneamente, né viviamo in Russia, ma viviamo in Italia. E possiamo attivamente fare qualcosa per fermare questo massacro, quindi attaccare direttamente, sabotare la NATO, che è qui presente con basi militari, con i suoi consiglieri, con le sue appunto università, dove viene riprodotta la logica della guerra e anche prodotte le armi. Per cui, rispondendo all'ultima parte della domanda, non ci sono attualmente gruppi nella nostra facoltà, diciamo un'assemblea unitaria contro la guerra, sono tutte le varie liste universitarie che si sono espresse, purtroppo tutti quanti contando unicamente il lato umanitario della questione, non il lato politico, ovviamente unicamente a favore dell'Ucraina, cioè dei profughi ucraini, dimenticandosi completamente di quelli del Donbass. E quindi appunto volevamo fare una cosa, diciamo, che mettesse sul banco tutto quello che veniva dimenticato, o meglio taciuto, da questo punto di vista. Perfetto, e ti volevo chiedere invece com'è andato il presidio appunto il 9 marzo in università. È stato partecipato, c'è stata una bella presenza, ci sono stati interventi interessanti? Ti volevo chiedere un po' questa cosa qui. Sì, allora, il presidio, vabbè, è stato partecipato, il presidio l'avevamo chiamato appunto presidio contro la guerra imperialista e contro la NATO, le parole d'ordine erano fuori la NATO dall'Italia, fuori la guerra imperialista dall'università, ed è stato partecipato, diciamo, per forza, nel senso che noi ci siamo piazzati con la cassa e il microfono fuori dall'uscita delle lezioni nel cortiletto di Scienze Politiche, che è un posto molto piccolo e dove convergono quasi tutte le aule dell'università, e quando c'è il cambio d'ora si riversano tutti gli studenti in questo cortiletto molto piccolo, per cui per forza di cose è stato partecipato, perché siamo andati noi incontro agli studenti. E poi anche ci sono stati parecchie partecipazioni da parte di solidali, anche di compagni, abbiamo visto molti compagni e questa cosa ci ha fatto sicuramente molto piacere. Come è andato il presidio in sé e dal punto di vista degli interventi? Non è andato, non che ci fossero grosse aspettative su questo tema, ovviamente, essendo un tema molto spinoso e diciamo caldo, gli interventi, allora, c'è stato un mio intervento come membro di Assemblea Scienze Politiche, che ha cercato un po' di riassumere la questione geopolitica veramente in maniera spiccia, quindi appunto dicendo: qui si sta parlando in Italia, in Europa, se e come entrare in guerra, quando in realtà noi in guerra ci siamo già, e soprattutto abbiamo questa guerra è stata creata anche e soprattutto purtroppo da noi. Detto questo, poi ho fatto un intervento su come l'università abbia un ruolo molto attivo nella produzione, soprattutto nell'industria bellica, ma anche proprio quindi da un punto di vista più privatistico, più aziendale, per cui con la riforma Gelmini si fanno entrare i privati in università, e ovviamente tra i privati ci sono anche aziende belliche, per cui per esempio abbiamo citato gli accordi che ha il Politecnico con Leonardo Finmeccanica dal 2016, questo Innovation Hub, per cui hai proprio i ricercatori e degli studenti che magari manco decidono loro di fare quello che fanno perché fa parte di un progetto che gli consiglia il professore o cose del genere, o per far carriera all'interno dell'università, e ti ritrovi a progettare, a studiare come magari l'aria passa sopra l'ala di un aereo fatto con un certo tipo di materiale che poi ovviamente Leonardo utilizzerà per costruire l'aereo che ti butta le bombe in Yemen piuttosto che in Siria del Nord, eccetera. Per cui abbiamo sicuramente denunciato questo fatto, abbiamo denunciato anche non soltanto la produzione della guerra da un punto di vista privatistico aziendale, ma da un punto di vista statale proprio, nel senso che per fare la guerra non bastano i generali e i soldati, ma servono anche i giornalisti che ti giustificano quello che succede, i politologi che ti spiegano che è una cosa brutta ma va fatta in nome della libertà, della democrazia, per esempio il tristemente famoso professor Panebianco che a Bologna negli anni in cui venivano fatte le torture ad Abu Ghraib piuttosto che a Guantanamo, scriveva un articolo sul Corriere della Sera in cui diceva che c'è bisogno di si chiamava il compromesso necessario, diceva c'è bisogno di una zona grigia in cui tra legalità e illegalità, in cui gli operatori per la sicurezza possono, diciamo, agire impunemente, quindi in pratica torturare. E queste persone sono quelle che poi ci insegnano a lezione, e devo dire che ci insegnano bene, nel senso che il presidio c'è stato un clima molto teso, non si è arrivati alla contestazione aperta, ma una professoressa di passaggio ci ha insultati quando per esempio abbiamo detto che abbiamo iniziato a fare il discorso sulle responsabilità della NATO, vari borbottii si sono levati, ci sono state anche, alla fine di ogni intervento ovviamente ci sono stati gli applausi da parte dei compagni che erano venuti, anche di molti che ascoltavano, ma di solito le cose in università vengono accolte in modo diverso, sicuramente in Italia è un ambiente anche molto di sinistra, si può dire, e quindi è più facile fare cose. Lì ci siamo trovati appunto a parlare a delle persone che non la pensavano come noi. Poi c'è stato anche un intervento di Nicolò del Centro di Documentazione Olga Benario, che è nato da poco a Milano, che ha spiegato dal punto di vista geopolitico cosa sta succedendo in Ucraina, e quindi sostanzialmente come si voglia fare un Afghanistan 2, un Nicaragua 2, quindi non partecipare direttamente al conflitto ma inviare tonnellate di armi per far impantanare la Russia in un conflitto che la prosciugherà dal punto di vista economico. Lì anche lì è stato, diciamo, accolto abbastanza freddamente, meno freddamente, perché si trattava di questioni, diciamo, più geopolitiche e meno dal punto di vista così strettamente politico. Però appunto questo è un segno di come su questa questione bisogna lavorare, perché purtroppo la propaganda dello Stato italiano è molto forte, e cito anche appunto a conclusione di questo intervento come sono stati aggrediti diversi compagni in tutta Italia alle piazze tra virgolette per la pace, in cui in realtà per la pace non sono, perché portando una posizione contro la NATO, cito a Sassari è stato strappato lo striscione di alcuni compagni, a Torino sono stati aggrediti, a Trieste anche sono stati minacciati di morte da appunto gente che si dice per la pace, ma poi quando ti dici contrario all'intervento NATO, alla no-fly zone, viene aggredito. E noi appunto abbiamo fatto questo presidio proprio perché non vogliamo che passi questo tipo di paura, e bisogna dire le cose chiaramente: la NATO è responsabile in primis e va combattuta e sabotata in ogni luogo, e noi cerchiamo di fare il nostro in università. Perfetto, e volevo chiederti, giusto per chiudere queste due parole che ci stiamo facendo insieme ora, se ci sono altre iniziative in programma, e se secondo te dal presidio ci sono appunto i margini per cui nasca un percorso contro la guerra continuativo. Mi hai detto che non c'è appunto un gruppo che si occupa, ma ci sono varie liste, varie situazioni, varie individualità che si stanno, insomma, interessando alla questione. Ti volevo chiedere se da questo presidio, insomma, secondo te c'è un margine per costruire qualcosa in università e non solo. Allora, è difficile dirlo, nel senso che appunto, come ho detto, non è stato accolto super bene, ma come è normale che sia, appunto, in una fase iniziale, era appunto il 9 marzo e la guerra era iniziata da pochissimo, tra l'altro iniziata da pochissimo, per cui da quel presidio lì non credo. Ci si è fatti un po' di chiacchiere assieme ad altri studenti in università e in effetti molti, per esempio le cui organizzazioni, per esempio le cui liste, prendono una posizione decisamente e unicamente filo NATO e filo Ucraina, pur rimanendo un po' così critici verso l'Alleanza Atlantica, i singoli magari si rendono più conto di come questa cosa sia problematica. Quindi staremo a vedere. Noi, dal punto di vista nostro di collettivo, vorremmo per il 25 aprile fare un'iniziativa, adesso è da vedere, diciamo uno spoiler, non l'abbiamo ancora pubblicato come evento, va costruito, però avremmo appunto interesse a cercare di collegare la questione antifascista a la questione ucraina, perché sembrano cose appunto impossibili o comunque molto strane, eppure il nazismo non è affatto una cosa morta, è una cosa molto viva, esattamente come negli anni 20, negli anni 30 il fascismo è usato dai padroni contro la classe proletaria e in generale contro i loro piani, per cui anche contro potenze imperialiste nemiche. Quindi da questo punto di vista qua va fatto ancora un po' di lavoro. Non ci sono, appunto, come ho detto, gruppi che si interessano specificamente di guerra. Più che altro bisognerà vedere a livello italiano quali altri collettivi in Italia si stanno occupando di questa questione. Per esempio il collettivo Crisis o il Colpol di Firenze, abbiamo visto che hanno fatto delle buone iniziative, anche a Napoli hanno preso una posizione buona, a Padova il collettivo Primavera. Più che altro si tratta, secondo noi, in questa fase di raccogliere le forze a livello nazionale che hanno una linea buona, perché appunto, come ho detto, purtroppo ci si va troppo spesso a infilare in una linea filonato, comunque né con uno né con l'altro, ma che alla fine si va soltanto ad ingrossare le fila dell'interventismo. E appunto quando si prova a ribadire che la propria posizione è di non soltanto contro Putin ma anche contro la NATO, si viene addirittura aggrediti. Quindi secondo noi l'unica cosa è ritagliarsi uno spazio che dica chiaramente: qua bisogna fare delle cose in concreto, e noi, vivendo in Italia, se vogliamo veramente fermare questo massacro, bisogna sabotare quelli che abbiamo qui presenti sul nostro territorio. Perfetto, grazie mille. Sì, hai dato anche un sacco di spunti, hai nominato anche dei responsabili diretti della guerra, che sono diretti e tali sempre e non solo all'oggi che è scoppiato il conflitto in Ucraina, quali Leonardo e Finmeccanica. Ricordiamo che poi i conflitti non esistono, cioè non esistono solo i conflitti che passano mainstream tutti i giorni, cioè insomma in Palestina o a Gaza la gente muore sotto le bombe, nel Rojava, nello Yemen, chi più ne ha più ne metta. Se iniziamo a fare elenco probabilmente non finiamo più. Va bene, dai, noi ti ringrazio per essere venuto qui direttamente a casa per questa chiacchiera, e speriamo di risentirci presto per parlare insomma di altre iniziative interessanti, se ci saranno, o di altre mobilitazioni contro la guerra. Ti ringraziamo e a presto. Grazie a te, buona serata a tutti e a tutte. Perfetto. Allora, ringraziamo il compagno e ora ci sentiamo un pezzo dei WOD, gruppo olandese, What Happened? Yeah, what's up, JB? Hey, nigga, what's crackin'? And what you doin'? What's going on? What's happening? Nowadays, I be pimpin' the mac, selling crackin'. Nigga, you still rappin'? What up, is? I hang with the hardest motherfuckers. I got rhymes by the buckets, make you niggas wanna suck it. I'm the epitome of God gifted. When I busted my first rap, the whole planet shifted. Your mind to the next best hemisphere. Next level shift, so you best just step in here. Check my gear. I got flavor, mad hip hop. I confront in the roughest neighborhood and I get shot. I black out. When niggas start hating shit, run over your crew like the new England Patriots. The craziest. But I'm also the laziest. Never turn on the TV, so I don't know who Jay-Z is. What happened to rap? In the 2-0 era, when they are getting worse, see, I'm only getting better. Niggas too old, Jay Young and Russia. Put them under pressure, professor, test you. What happened? WDOD became the illest. What happened? Phony MCs is getting finished. What happened? You face defeat, and we the winners. Wicked with the lyrics in a minute. You're diminished. I hear people say back in the day he wasn't like this. Is he stuck in a cycle of drugs, sex, and violence? Reflects on your iris. Gingivitis erupts through the gums of plenty of biters. Excalibur weaponry wielder. Do you dare to step into the deadliest field of hardcore hip hop? We laugh at your idols. Fuck your advice. I walk the path of the psycho. I kill MCs regardless of which rhyme I drop. On top of the corpses, we climb to the top. Who's next to flop? Cause he thought he was heavy. The last one retired when I tore through his belly. The cyborgs are ready to reboot the system. People go listen. A lot seem to have vanished. What? They asked me, what happened? Why do I act funny? I stay brain dead like I got bitten by a rat monkey. Every day I hear the same fucking BS. The same old song, you just don't progress. You won't confess that you all fame obsessed. I've seen it all, and I'm far from impressed. I get a lot of criticism, you can be my guest. This hip hop shit just got repossessed. Peeps don't wanna see us have any success. It's time for these rookies to go hit the bench press. You're not the guy I used to know. It's all about the rate of flow. He's even got a golden glow, what a way to go. This prick didn't even greet me at the show. Thinks he makes art like he's Vincent Van Gogh, but no, I turn from amateur to pro. I put in work daily, you just don't know. No, you just don't know, no, just don't know, no, you just don't know, no, you just don't know. What happened? WDOD became the illest. What happened? Phony MCs is getting finished. What happened? You face defeat, and we the winners. Working with the lyrics in a minute, you're diminished. Torniamo in diretta, 20 e 24, puntata abbastanza piena oggi. E come detto prima, quando abbiamo annunciato la scaletta, parleremo anche della repressione che ha colpito ancora una volta i compagni e le compagne che si oppongono al treno ad alta velocità, alla TAV in Val di Susa. E ora abbiamo in linea un compagno con cui ci faremo due chiacchiere, appunto a riguardo dell'ennesima operazione repressiva che c'è stata pochi giorni fa. Ciao, ci senti? Ciao, sì, ci sono. Ciao, buonasera, andiamo, benvenuto. Tutto bene? Bene, bene, benvenuto. Perfetto. A Cronache di Regime. Grazie. Allora. Vai tu. No, vabbè, io ti volevo fare le domande, però se vuoi andare tu... Vai, fammele pure. Sì, no, prima insomma di entrare nello specifico dell'operazione repressiva, ci stava se ci davi un po' un quadro generale della situazione che c'era in Val di Susa nell'ultimo periodo, diciamo anche da quello che era stato un po' l'occupazione dell'autoporto di San Didero, dallo sgombero in avanti e di tutte le situazioni insomma che poi sono arrivate praticamente repressive, anche se poi in realtà ci sono state anche un po' di situazioni di attacchi che probabilmente saranno correlate a livello repressivo, però vai, dici di un po' tu. No, ok, allora nell'ultimo periodo, da dopo aprile, così dopo lo sgombro di San Didero, ci sono state ovviamente iniziative e cose del genere per la valle, eccetera. E comunque, nel senso, c'erano comunque robe, però non robe grossissime, però c'era comunque presenza attiva nella valle, eccetera. Poi ultimamente sono arrivate queste misure repressive, tra l'altro gravissime, in cui c'è il PM, la Digos e tutta la giustizia torinese, diciamo, ha proprio esagerato. Infatti, cioè, ha fatto certi fascicoli che sembrava che manco nei libri di Aragon che tira giù via le medie. Era roba proprio fantasy, ragazzi, veramente. E nulla, quindi c'era questo clima di repressione totale che è uscito giovedì praticamente, sono state fatte perquisizioni varie, tutte queste cose qua, insomma. Ok, volevo chiederti, insomma, le misure repressive, se ce le puoi, se ci puoi parlare un po' meglio di questo. Mi pare ci siano 2 arresti, persone domiciliari e anche una serie di obblighi e divieti di dimora, vero? Sì, allora, praticamente di divieti di dimora da Gioione e Chiomonte, che sono i paesi un po' più interessati a sto schifo del cantiere TAV e tutte queste cose qua. Lì i divieti di dimora ci sono stati per tutte le persone indagate, insomma. E poi qualcun altro ha avuto le firme bigiornaliere, tra l'altro, quindi che ti devi far vedere alla mattina e poi ti devi far vedere alla sera dagli sbirri per andare a firmare, insomma, una rottura di cazzo bella abbastanza grossa. Poi ci sono stati dei domiciliari e ci sono state due incarcerazioni, purtroppo. Purtroppo giovedì mattina c'è stato un risveglio abbastanza brutto per tanta gente, incluso me, e nulla, quindi non è stato bello poi beccarci in questura tutti la mattina, insomma. Volevo chiederti, questa operazione repressiva riguarda anche situazioni specifiche di attacco al cantiere, cioè vengono contestate situazioni specifiche, o è il solito costrutto della procura dove mettono insieme un po' di... Cioè, volevo capire un po' in cosa consiste questa... Hanno fatto un insieme generale, ovviamente portandolo al lite dell'esasperazione su delle robe che ci sono state in valle, comunque dei cortei, qualcosa del genere, e l'hanno portato veramente all'esasperazione, dando come capi d'accusa anche robe veramente grandi, tipo, cioè, associazioni sovversive e altre cose del genere, quindi era proprio fantascienza totale. E niente, quindi si vedrà in futuro come evolverà la situazione. Per ora ci sono state queste misure cautelari qua. Faldoni veramente grossi, di gente che si è impegnata pure tanto a scriverli, quindi non lo so. No, vabbè, immagino. Soldi buttati. Le varie, quello come al solito quando arriva la mannaia repressiva sulle teste dei compagni e delle compagne. E certo, assolutamente. Per chiudere un comunque po'... Comunque sì, l'estate, roba più che altro dell'estate del 2020, quando c'è stato il presidio dei mulini, che è stata comunque un'estate calda per il movimento, bella frequentata. E poi è arrivato tutto più o meno dopo 2 anni, così. Poi ci sono anche altre cose riguardanti lo sgombero di San Didero fino all'8 dicembre dell'anno scorso, quindi poco tempo, relativamente poco tempo fa, insomma. Ok, e volevo chiederti se già ci sono iniziative in programma di solidarietà in valle, non solo in valle, in seguito all'ondata depressiva, questo per chiudere un po' la chiacchiera. Allora, sì, sabato abbiamo fatto un saluto al carcere di Vallette con gente degli spazi, eccetera, e anche altra gente, cioè, era bello frequentato. Comunque abbiamo fatto un saluto alle valette e ai compagni incarcerati, e poi dopodiché hanno fatto una marcia ieri, mi sembra, a Bussoleno. Qui non ho potuto partecipare purtroppo, una specie di fiaccolata per il paese. E poi invece questa settimana, praticamente quasi tutti i giorni, ci sono iniziative, tipo martedì 15 al presidio di San Didero c'è un caserolazzo, che praticamente ci sono gente che batte pentole davanti al cantiere dell'autoporto di San Didero. Poi mercoledì ci sarà una pericena ancora del nucleo Pintoni Attivi, che sono dei grandi. Sono i più caldi, proprio i vecchietti più caldi del movimento, che a berci con loro, cioè, veramente perde il fegato. Poi giovedì 17 per il pranzo, venerdì 18 assemblea del presidio e sabato 19 mercatino dei produttori locali. Questo sempre che si tiene a San Didero, comunque. Ci sono queste cose qua. Quindi se siete della zona che ci ascoltate, partecipate, che no, non ve ne pentite. Ok, perfetto, dai, ti ringraziamo. Comunque ci sono una serie di iniziative in solidarietà, anche dopo questi ultimi arresti no Esatto, TAV, come al sì. solito Esatto. in valle. Per fortuna le persone non vengono lasciate, le persone colpite dalla repressione non vengono lasciate sole. No, no, Perfetto. certamente. Dai, ti ringraziamo, grazie della disponibilità e ci sentiamo prossimamente, magari sperando di non parlare solo di repressione. Grazie a voi per lo spazio. Ciao ragazzi, Ok, ciao. buona serata. Ciao ciao. Grazie a te. Ciao. Perfetto, abbiamo sentito il compagno che tra l'altro anche lui è stato colpito dalle misure cautelari per questa nuova ondata repressiva. No TAV, noi ci avviamo verso la conclusione del programma e come al solito però proviamo a fare un'intervista ad un gruppo musicale. Questa volta toccherà agli Antidigos, gruppo punk di Bari, che presenteranno il loro CD L'amor mio non muore. E appunto, per entrare in tema, ci sentiamo subito L'amor mio non muore degli Antidigos e poi torniamo in diretta con Cronache di Regime con i ragazzi degli Antidigos e ci facciamo una chiacchierata con loro. Sono stanco di sembrare qualcosa che non sono. Ho rotto tutti gli specchi, sono rimasto solo. In una città di matti, regressi a me pensanti. Ho trovato solo odio, ho sfogato con i fanti. Ho sfogato, torniamo in diretta sempre qui sulle frequenze in streaming di Mala Radio con Cronache di Regime e siamo collegati con i ragazzi degli Antidigos con cui proviamo a farci una chiacchierata. Ciao, ci sentite? Pronto? Ciao, mi senti? Sì, ti sento, ti sento. Ciao a tutti e Ciao. tutte. Ciao. Ciao, Buonasera a tutti e a tutte. ciao. Ciao, ragazzi. Allora. Ah, benvenuti a Cronache di Regime. E niente, allora, prima di parlare un po' del vostro nuovo CD, che tra l'altro poi, vabbè, dell'anno scorso, però diciamo nuovo perché poi il Covid ha insomma bloccato un po' tutto anche per quanto riguarda presentazioni, eccetera. Volevamo chiedervi un po' due parole sulla storia del gruppo, quando nasce il gruppo e niente, parlare un po', insomma, parlateci di voi. Iscrivetevi. Va bene, va bene.

20:51, parte finale di Cronache di Regime, come ogni volta proviamo sulle note di Gloria Gaynor a dire e raccontarvi tutte le iniziative che ci saranno a Milano in settimana, quelle che più o meno siamo riusciti a reperire, che siamo riusciti a scovare. Questa sarà una settimana comunque molto impegnativa perché, come molti sapranno, è la settimana di Dax. Il 16 marzo infatti ricorre l'anniversario della 19esimo anniversario della morte di Dax, che è stato ucciso dai neonazisti fuori al Bar Tipota il 16 marzo del 2003. Va bene, iniziamo con le iniziative, continuano i cicli in libreria Ananzi ogni martedì, le proiezioni di manga, quindi domani in via Breda 54 presso la libreria Ananzi, dalle ore 20 ci sarà la proiezione di Memories. Andiamo a mercoledì, come detto, appunto ci saranno un po' di iniziative. 16 marzo appunto ci sarà il presidio prima alle ore 20 in via Brioschi angolo via Zamenhof. Quest'anno il ricordo di Dax sarà legato alle morti sul lavoro, quindi alla morte di Adil, ma anche alla morte di Lorenzo, il giovane che è morto durante l'alternanza scuola-lavoro. Quindi alle ore 20 ci sarà il presidio, che sarà organizzato dall'associazione Dax, dove come al solito ci saranno svariati interventi, e poi alle 21:30 ci sarà il corteo che si snoderà per le vie di Milano, che terminerà come al solito sotto casa di Dax, quindi sotto via Gola 7. Ricordiamo a tutti e tutte che appunto Dax viveva nelle case occupate di via Gola. Passiamo poi a giovedì 17, c'è un'iniziativa in piazza Leonardo, in Città Studi. Non sono soltanto bollette, l'aumento del prezzo del gas, l'ennesima goccia in un vaso stracolmo. Quindi martedì 17 alle 17:30 ci sarà un workshop, parliamone insieme, in questo workshop e costruiamo l'alternativa, tra virgolette, energetica. Ci sarà un'altra iniziativa sempre in università, questa volta in università statale, dalle 4, nel chiostro di storia, in via Festa del Perdono. Paolo Gibilisco presenta Da un'emergenza all'altra, l'agenda che non esiste, manuale d'emergenza per lo stato d'emergenza. Questa iniziativa è organizzata dall'Assemblea degli Studenti Universitari di Milano. Passiamo al 18 marzo, quindi a venerdì. Venerdì c'è un'interessante iniziativa al piano terra, la Venere degli stracci, il lato violento della riqualificazione. Quindi ci sarà la presentazione appunto di questo libro, La Venere degli stracci, con l'autore Francesco Migliaccio, un attivista del Balloon, e la giornalista Lucia Tozzi. Ricordiamo, il piano terra si trova in via Federico Confalonieri 3 a Milano. Sempre il 18 marzo in Villa Vegan, in via Litta Modignani 66, invece ci sarà un concerto con Host Bliss e Wisecrack. Passiamo al 19. Il 19 invece ci saranno una serie di iniziative e di concerti. La mattina in provincia ci sarà un'assemblea Noa Elcon, sempre viene rilanciata, diciamo, da anni ormai, una partecipazione attiva e decisa dei cittadini contro la puzza proprio che produce e che avvelena il territorio tra Olgiate, Marnate e Castellanza. Quindi sabato 19 marzo alla mattina alle 10 al teatrino di Villa Gonzaga ci sarà un'assemblea contro l'Elcon. Poi sempre il 19 marzo e inizia alle 10.30 un'altra interessante iniziativa presso il laboratorio Casciavitti in via San Faustino 64 a Milano. Ci sarà l'assemblea antimilitarista, inizia alle 10.30, introduzione di un compagno dell'assemblea antimilitarista, poi un intervento di Stefano Capello, la politica energetica italiana tra la prima e la seconda repubblica, continuità e rotture, poi Daniele Ratti con l'Eni Armata, e poi ci sarà una pausa e la ripresa alle 14.30 con Antonio Mazzeo, le avventure neocoloniali dell'Italia dal Sahel al Mozambico, Andrea Turco, la colonizzazione mentale, il caso Eni a Gela, e poi Massimo Varengo che darà uno sguardo antiimperialista sulla guerra in Ucraina. Il 19 marzo sempre ci sarà la giornata di sport popolare per Dax, si inizierà alle 9 e in maniera puntuale c'è una chiamata per la preparazione dei campi da gioco, e poi diciamo all'interno della giornata ci saranno tutti i vari sport che si appresteranno a fare dei tornei e delle partite, quindi pallavolo, basket, rugby, calcio, box e skate. L'iniziativa si terrà fino alle 20, musica, cibo e birretta alla spina. Il luogo non è definito e sarà a Milano, zona sud. Il luogo verrà definito il giorno stesso e potrete trovare su Facebook o comunque sui canali dei canali quali Tutto Squat il luogo dove si terrà l'iniziativa, e verrà comunicato sabato mattina. Poi ci sono vari concerti il sabato sera. Iniziamo subito dal concerto di Dax, quindi Noi per Dax, Benefit 130.000, si terrà in Fornace quest'anno, suoneranno in Abbat, i prodotti locali e gli Shots in the Dark. Il concerto dovrebbe iniziare alle ore 23, poi siccome le iniziative della giornata di sport popolare per Dax e il concerto sono legati, e siccome c'è anche l'iniziativa del rugby, dalle 21 in realtà ci sarà la proiezione dell'ultima partita del Sei Nazioni, quindi un terzo tempo lungo per i rugbisti quel giorno, e poi inizierà il concerto appena finita la partita. Sempre 19 sera al Baraonda in via Bacinotti 13 a Segrate invece ci sarà il concerto con Disco Mostro, Row, Obos, Overchange, Toxic Youth, Menagramo e Au revoir Sofia, scusate la pronuncia. Comunque anche un gran bel concerto punk hardcore, sempre il 19 al Baraonda. Invece a Loncavallo ci sarà una serata techno, Make Techno Not War, Pablito il Dritto più Xian, a Loncavallo appunto il 19 sera. Passiamo al 20. Al 20 anche ci saranno una serie di iniziative molto interessanti. In Fornace ci sarà il teatro della Fornace con lo spettacolo Topi, In corvetto invece dalle ore 17 in piazza Gabriel Rosa ci sarà Fuckhole Seas, ci sarà un pomeriggio con rap e trap, microfono aperto, tutto il pomeriggio battle, freestyle, open mic, birrette, disse e concerti. Ribadiscono sulla locandina, viene ribadito no fasci, no sbirri, no snitch. E poi sempre domenica 20 in T28 invece si festeggerà il Nevroz, che è il capodanno di Libertà, il capodanno curdo, che dovrebbe arrivare alla mezzanotte, infatti dovrebbe essere il 21, e quindi domenica si aspetterà tutti insieme e tutte insieme l'arrivo del capodanno curdo del Nevroz. Va bene, queste sono le iniziative che ci saranno questa settimana a Milano. Noi per questa puntata abbastanza impegnativa abbiamo terminato, ora mandiamo l'ultima traccia, mettiamo un pezzo di un gruppo hardcore straight edge vegan e antifascista, si chiamano Yankor, e questo è In the Throes of Passion. Bene, noi ci sentiamo settimana prossima sempre con Cronache di Regime, vi auguriamo una buona serata a tutti e tutte, a presto.